Incontri di Gianfranco Fabi. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E lo ascolteremo a lungo, Franco Battiato, il suo La Cura, questa appassionata canzone, questa passione verso le persone, questo aiuto alle persone. Con questa canzone iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Matteo Truffelli. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Matteo Truffelli, docente di storia delle teorie politiche all'Università di Parma, ma soprattutto presidente dell'Azione Cattolica. E ringrazio Matteo Truffelli di essere con noi, ma innanzitutto gli chiedo La Cura, cosa le ricorda, perché ha scelto questa canzone, questo appello in fondo di Franco Battiato. Sì, allora innanzitutto l'ho scelta perché è una bella canzone, è una bellissima canzone sia musicalmente che come testo, e poi perché dice appunto la bellezza, l'importanza di una vita che trova il suo significato nel prendersi cura delle persone, della persona amata innanzitutto, ma di tutte le persone con cui troviamo a condividere la nostra vita. Dice la pienezza dell'essere umano in qualche modo, che è immerso in questa fitta rete di relazioni, e al tempo stesso dice anche un po' quello che vuole essere l'Azione Cattolica. Cioè vincere la forza di gravità, la forza di gravità che ci porta in basso, invece dobbiamo cercare anche di sollevarci, di guardare verso l'alto. L'Azione Cattolica, come è iniziato il suo impegno in Azione Cattolica? Il mio impegno è iniziato in realtà da ragazzo, nel senso che quando ho iniziato a frequentare le esperienze estive dell'Azione Cattolica, come proprio come cammino di formazione. Poi progressivamente ho capito, mi hanno aiutato anche a capire che ciò che ricevevo, ciò che mi era dato da tante persone che mi accompagnavano, potevo a mia volta in qualche modo cercare di restituirlo ad altre persone, ad altri ragazzi di cui farmi accompagnatore, e così ho cominciato il mio impegno. Questo nell'ambito di Parma, lei è parmense si dice? Parmigiano. Parmigiano, è parmigiano di nascita e di vita, è un ambiente forse, non dico molto aperto di fronte all'esperienza religiosa, di solito si vede un po' l'Emilia come una terra rossa, diciamolo così, molto, certo. Molto francamente. Sì, questo credo che abbia segnato in qualche modo anche il tipo di esperienza religiosa, nel senso che è vero, siamo nella terra rossa, siamo la punta avanzata forse della secolarizzazione in Italia, però siamo anche una terra che ha ancora forte il senso di comunità solidale, e siamo anche una terra in cui le idee, le opinioni, i modi di vedere il mondo si scontrano in modo vero, sincero, aperto, e questo sicuramente aiuta a formarsi, aiuta a maturare. Certo, problemi a Parma ce ne sono stati, non parliamo dei temi economici né di quelli sportivi, in quest'ambito possiamo solo accennarne come un esempio appunto di realtà che è aperta a tutte le problematiche, sia positive sia negative. E in questa realtà appunto un giovane inizia a impegnarsi nell'Azione Cattolica. Ecco, l'Azione Cattolica è vista, ha avuto grandi successi nel passato, se ne parlava molto negli anni 50-60 come incidenza anche della vita politica, poi si è un po' appannata. Qual è stata un po' la parabola dell'Azione Cattolica che festeggerà i 150 anni, mi sembra, tra poco? Tra il 17 e il 18, nel senso che è nata nel 1867, ma poi è stata ufficialmente riconosciuta nel 1868. Io non parlerei di appannamento o di parabola dà un po' l'idea della decadenza. E sicuramente dopo il Concilio l'Azione Cattolica ha capito che occorreva trasformarsi, occorreva cambiare in profondità per fare una cosa molto semplice, per cercare di dare concreta attuazione agli insegnamenti, agli incoraggiamenti del Concilio nella Chiesa italiana, nel territorio italiano. Questo gli ha chiesto sicuramente di cambiare un pochino le modalità con cui viveva nel tessuto del paese, ma non è stata una presenza che è declinata, è stata una presenza che ha continuato negli anni e che è ancora viva, significativa in tutto il territorio. Ecco, possiamo dire che nel dopo concilio c'è stata un po' la concorrenza dei movimenti, da Comunione Liberazione, i Focolarini e Sant'Egidio, ad altre comunità che hanno vissuto in maniera diversa, potremmo dire complementare, non alternativa a quella dell'Azione Cattolica, e però in un certo, almeno in un certo periodo storico, c'è stata un po' di concorrenza. Sì, non so se concorrenza, diciamo, è un termine forse più da economista, esatto, più da economista che non ecclesiale. Che non da sociologo. Sicuramente è stata una diversità, una pluralità che si è anche fatto fatica a volte a interpretare nel modo corretto, cioè come una pluralità che è arricchimento reciproco, è arricchimento nella comunione. Io devo dire anche che io sono nato in quegli anni, ma in qualche modo forse sono il primo presidente che non li ha vissuti in modo diretto, in modo direttamente coinvolto. E questo in qualche modo dice anche che c'è stata quella stagione, ma adesso siamo in una stagione che forse ha fatto un passo in avanti da questo punto di vista. Una azione di collaborazione, di apertura, di maggiore adesione anche a una realtà ecclesiale che ha forse trovato maggiormente una propria formula. Dopo abbiamo avuto dei papi diversi come atteggiamento, come porsi all'interno della società. Forse anche questi diversi pontificati hanno segnato un po' la presenza nella società di realtà appunto ecclesiali. Sicuramente i pontificati sono stati pontificati tra loro differenti, con sottolineature differenti, ma credo che la vera differenza l'abbia fatta la necessità di confrontarsi con il contesto culturale, politico, sociale del nostro paese. È lì che abbiamo avuto da trovare strade da declinare, e ognuno ha trovato la propria strada appunto all'interno di una pluralità significativa. Ecco, peraltro con l'uscita di scena della Democrazia Cristiana non si è posto più il problema del collateralismo, quindi si tratta, in fondo i movimenti e le associazioni cattoliche hanno avuto una maggiore libertà nella Seconda Repubblica, possiamo chiamarla così, non so se lei come docente di storia delle teorie politiche mi passa il termine. Diciamo, glielo passo perché ormai è entrato nella vulgata, anche se ai miei studenti spiegherei che non andrebbe utilizzato. No, certo, anche questo è un passaggio importante e decisivo. Per l'Azione Cattolica ha voluto dire acquistare più consapevolezza della propria identità, della propria natura, della propria missione. E ha voluto anche dire sapere che il compito che avevamo, che è quello di prendersi la responsabilità dell'evangelizzazione, di ciò che deve fare la Chiesa, è un compito che non deve far conto sugli strumenti del potere, politico ed economico, ma deve far ricorso ad altre vie, ad altre strade. Che non è solo una scelta strettamente religiosa, è anche una scelta di impegno nella società, un impegno diretto di fronte anche ai problemi molto forti che ci sono nella società, l'emarginazione, la povertà, l'immigrazione. Voi prendete posizione. Certo, allora la scelta religiosa per noi è esattamente questo, non è un ritrarci dal mondo, non è un astrarci dal contesto, tantomeno dalla vita concreta delle persone, delle comunità. Per noi scelta di essere credenti non può che avere direttamente implicazioni nell'impegno per il mondo, per il bene comune, per appunto la vita delle persone. Ecco, sulla realtà dell'Azione Cattolica, sul suo impegno, ma anche sul fatto che siamo in fondo entrando nella settimana di Pasqua, vedremo poi nella seconda parte del nostro programma di approfondire questi temi con Matteo Truffelli, presidente dell'Azione Cattolica. Mi dicono dalla regia che sono in linea le notizie sul traffico, lasciamo spazio alle notizie sul traffico. Ma ci risentiamo tra poco. Incontri. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ancora con questo richiamo molto appassionato di Franco Battiato, riprendiamo il nostro incontro di questa sera. Grazie a clienti sono rimasti in linea con noi, grazie a Matteo Truffelli, presidente dell'Azione Cattolica, con cui abbiamo parlato nella prima parte appunto della presenza di questa associazione, un'associazione che ha una lunga storia, quasi 150 anni, che festeggeranno nei prossimi anni, ma che ha avuto anche dei grandi cambiamenti negli ultimi anni, in coincidenza anche appunto con i cambiamenti politici e sociali culturali all'interno dell'Italia. Matteo Truffelli, qual è adesso la carta d'identità della Nazione Cattolica? Quante persone coinvolge? Dov'è più presente, più assente, possiamo anche dire? Sì, l'Azione Cattolica innanzitutto è radicata, è presente capillarmente, possiamo dire, in tutto il paese. Noi siamo, l'Azione Cattolica c'è in tutte le diocesi italiane, che sono quasi 220 se non ricordo male, c'è in più di 7.000 parrocchie. È un'associazione ancora quindi radicata e presente nel paese. Naturalmente, essendo un'associazione che fa della appartenenza, della presenza nella chiesa locale, nel territorio, e che vuole essere lì, vuole servire la chiesa locale, vive tutte le fatiche e tutte anche le capacità e tutte le ricchezze della chiesa. Quindi là dove la chiesa magari fa più fatica, anche noi facciamo più fatica, là dove la chiesa incontra un territorio più facile, anche noi siamo. Ci sono ancora presenti. Comunque le tessere, uno può essere iscritto alla Chiesa Cattolica, certo. Anche se poi uno può anche non essere iscritto e partecipare alle iniziative. Qual è quante persone coinvolgete nelle vostre iniziative? Sì, noi allora intanto noi teniamo molto all'adesione, appunto alla tessera, sì. Non semplicemente come simbolo o come cosa numerica, ma proprio come segno di assunzione di una corresponsabilità, come scelta che si fa anche pubblica, come segno che si vuole partecipare alla vita dell'associazione. Detto questo, oltre alle centinaia di migliaia di persone che fanno parte dell'associazione, ce ne sono anche tantissime altre che vivono il cammino associativo, partecipano ai gruppi, oppure hanno persone della famiglia, figli, genitori che fanno parte dell'associazione, quindi condividono con noi questo cammino. E le loro iniziative, che cosa può ricordare negli ultimi anni che sono state realizzate dalla Nazione Cattolica per essere presenti all'interno del territorio? Quali punti forti possono essere un po' un simbolo della vostra presenza? Questo è un discorso in un certo senso complesso, nel senso che paradossalmente i punti forti sono anche quelli che meno visibili, cioè la nostra presenza quotidiana, concreta nella vita delle comunità locali e l'accompagnamento alla maturazione delle persone e alla capacità di essere poi testimoni credibili nella vita quotidiana, al lavoro, a scuola, all'università, tra gli amici. Quindi difficile dire abbiamo fatto questa cosa, no? Perché è la quotidianità il nostro specifico. Che in fondo è anche un richiamo di Papa Francesco. Abbiamo parlato prima dei cambiamenti avvenuti all'interno della Chiesa, anche nello stesso modo di porsi dei vari pontefici negli ultimi anni. Ecco, cosa ha rappresentato per l'Azione Cattolica Papa Francesco e cosa rappresenta questo pontificato? Papa Francesco è il segno di una Chiesa sempre capace in qualche modo di sorprendere, di rinnovarsi, di rilanciare e di correre incontro alla vita delle persone. Papa Francesco, diciamo, stupisce per la capacità quotidiana, anche in questo caso, di fare gesti, dire parole capaci di arrivare al cuore e alla testa delle persone, credenti e non credenti. Allora, per noi è l'invito a seguirlo nel suo essere, diciamo così, con un'immagine, un pastore ostinatamente in cerca della pecora perduta. Cioè la vostra adesione, diciamo, è totale a Papa Francesco. C'è stata all'interno della Chiesa, non bisogna nascondersi, anche qualche sopracciglio che si è sollevato. Possiamo ricordare Vittorio Messori su Corriere della Sera, proprio alla vigilia di Natale, che diceva, che metteva non tanto un articolo critico quanto problematico sulla presenza del Papa. La vostra adesione invece è senza critiche. Sì. Io ho anche scritto un piccolo articolo, un parso su Avvenire, proprio prendendo spunto da quel testo di Messori, laddove il punto cruciale, secondo me, che sollevava Messori era quello che questo Papa inquieta i credenti, cioè li rende meno tranquilli. Ecco, questo per me, per noi come associazione, non è certo un limite, non è certo una critica, perché credo che sia esattamente quello che Papa Francesco vuole fare. Vuole scuotere i credenti, spingendoli a non rimanere, diciamo, nel porto tranquillo delle loro certezze, ma sapendo che la fede è qualcosa che chiede di vivere la vita in mare aperto, lasciandosi interrogare dalla vita e lasciandosi interrogare dalla vita delle persone che chiedono di essere aiutate a trovare segni di speranza dentro di loro. In fondo è un messaggio di unitarietà, in cui nella Chiesa ci sono i riti, ci sono le liturgie, ci sono i momenti comuni che vengono dalla tradizione. Tra l'altro stiamo entrando nella Settimana Santa, che è ricca di riti, è ricca di sollecitazioni, ma c'è anche insieme a questo un'apertura al mondo che non può essere divisa poi soprattutto all'interno della persona. Quindi è forse anche questo un messaggio da dare, su cui riflettere proprio in questi giorni in cui ci avviamo verso la Pasqua. Sì, certo. Infatti appunto proprio questa impossibilità di dividere credo che dica anche in qualche modo, mi passi il termine, l'assurdità del tentativo di chi divide. Noi siamo di Papa Francesco, noi siamo di Papa Benedetto, noi siamo di Papa Giovanni Paolo II, che mi ricorda appunto, c'è un passaggio di San Paolo che dice: non dite mai io sono di Cefa, io sono di Apollo e così via. La Pasqua ci invita anche a questo, perché ci invita a cogliere il centro della vita di fede, che è la consapevolezza che il Signore ci salva e la consapevolezza che la venuta del Signore ha dato pienezza di senso alla vita delle persone. Naturalmente questo ci chiede di testimoniarlo, ma anche di fare ogni cosa possibile per aiutare chi vive accanto a noi, per scoprire nella propria vita i segni di questo amore. Cioè vivere all'interno della società, non come dice qualcuno, come se Dio non ci fosse, ma come se Dio c'è. Certo, non si può pensare che Dio ci sia o no sia una cosa indifferente, fa la mia vita ha preso forma dall'incontro con il Signore, e questo credo che sia quello che si ricorda la Pasqua. Ecco, questa dimensione dell'incontro, questa dimensione del rapporto con la persona, questa dimensione che porta la persona ad essere aperta verso gli altri, è qualcosa che costituisce anche una realtà di un'associazione. Come si evita che l'associazione sia un po' autoreferenziale, che uno sia un po' soddisfatto dal partecipare all'interno di un gruppo, a una realtà o a una missione? Lo si evita in un modo molto semplice, facendo quello che deve fare la Chiesa. La Chiesa non esiste per sé, esiste per il mondo, esiste per gli uomini, e anche l'azione cattolica non esiste per se stessa, esiste per aiutare le persone a fare l'esperienza bella dell'incontro col Signore. E quindi come si evita? Si evita semplicemente ricordandosi sempre che noi siamo qui per andare a raccontare la bellezza di una vita che ha incontrato la fede. Una bellezza di una vita che è anche una bellezza del creato, una bellezza della natura. Mi pare che lei sia un appassionato di montagna. Tra l'altro sul sito c'è una sua fotografia con sua moglie, con alle spalle una montagna che è una montagna delle Dolomiti, ma non ho saputo riconoscere. Immagino a cosa si riferisce, è una delle Tartofane. Ah, una delle Tartofane. Sì, la montagna è una grande passione. Una passione, ma nel senso dell'alpinismo o solo della... In tutte le sue forme, dalla raccolta dei funghi all'usci di fondo, però soprattutto all'escursionismo, ma soprattutto all'arrampicata. L'arrampicata è la vera mia passione che coltivo, in particolare con mio fratello. Beh, c'è un po' di rischio in questo, c'è un po' la voglia di sfidare anche la montagna, o la voglia di conquistarla, o il fatto di raggiungere anche, diciamo, un equilibrio interno per cui si è pronti anche ad affrontare il mondo quando si affronta la montagna. Sì, io devo dire che non lo concepisco come rischio, non sono uno di quegli alpinisti così bravi da potersi permettere di vivere la montagna in questo modo. No, lo vivo proprio come qualche cosa che mi fa sentire pienamente a mio agio con me stesso, con le persone con cui vado in montagna, con cui condivido la fatica e la bellezza del sentiero, ma anche dell'arrampicata, del contatto con la roccia, della salita. Anche quando si è da soli, quindi sono momenti in cui si può essere da soli di fronte alla realtà, una realtà bella come la montagna, e sono momenti che sono utili anche appunto per raggiungere un'unitarietà, per poi essere più forti di fronte anche a una realtà in cui ci si mette in confronto diretto con gli altri. Quindi non sono alternative le due cose, sono complementari anche qui. No, non lo sono. Diciamo che la montagna per me mi aiuta a ricordarmi sempre un passo di un salmo in cui si dice che cos'è l'uomo perché te ne curi, eppure l'hai fatto poco meno di te. Ci avviamo alla conclusione, come fare gli auguri di buona Pasqua ai nostri ascoltatori e di buona Pasqua al nostro paese, che tutti quanti noi amiamo e che vorremmo migliore di quello che è, ma dipende poi in fondo anche da noi. Lo direi in almeno due modi. perché la Pasqua è preceduta dalla passione, dalla morte, dal silenzio, e che sono esperienze che fanno parte profondamente della vita di ciascuno di noi, credente o non credente. E allora in quei tre giorni si trova tutta questa dimensione e anche la profondità, il senso vero di questa vita e anche delle fatiche della quotidianità, che però, come dice sempre Papa Francesco, trovano poi il loro significato profondo nella Pasqua, nella Resurrezione. Quindi ricordarsi sempre che il credente non è un credente che vive per la Quaresima, ma per la Pasqua, per la speranza che nasce dal sapersi amato dal Signore. Possiamo dire c'è la crisi, ma c'è anche poi la ripresa da un punto di vista economico, c'è il peccato, poi c'è anche il perdono da un punto di vista teologico, magari da un punto di vista sociale anche questo paese ha avuto dei momenti difficili. Possiamo guardare in avanti con speranza, con fiducia, anche da un punto di vista di coesione sociale, di capacità di, in fondo, di guardare al domani, nel senso che dobbiamo avere l'ottimismo della volontà. Credo di sì, ma anche perché girando il paese, cosa che io faccio per il mio servizio, vedo che nel paese ci sono grandi energie, grandi forze morali, solidali, culturali, che tengono insieme questo paese e che possono farlo riprendere. Possiamo dire anche forze economiche, anche realtà positive che vanno bene, che forse dovrebbe avere un po' più di fiducia e anche mostrarsi più apertamente, mettere meglio e di più le cose positive. Invece molto spesso guardiamo solo le cose negative, cosa che poi magari ci deprime un po'. Invece dobbiamo essere un po' ottimisti, e con questo messaggio di fiducia, di speranza, guardando al domani, auguriamo buona settimana di Pasqua a quanti ci ascoltano. Grazie a Matteo Truffelli, a lei, Presidente dell'Azione Cattolica, di essere stato con noi. Grazie a Vittor Bescapè e Luca Cremonese, che ci hanno aiutato dalla redazione e dalla regia. L'appuntamento con Incontri è per domenica prossima.